La zanzara extra. No, è possibilissimo. No, è possibilissimo, certo. Andiamo pure. Che disastro. Ma dove abbiamo visto andiamo pure? Cioè, oh, dice... è con noi il direttorissimo di Libero, Vittorio Feltri. Vittorio! Alleluia! Evviva, un trionfo! Festa grande. Allora, io voglio subito chiederti di Napoli che... Festa grande! Che è una cosa che ci ha intrattenuto grande negli ultimi giorni. Ora io dico, come si fa? Come si fa, lo dicono alcuni, a sostenere che il carabiniere abbia qualche responsabilità? Poi sarà l'inchiesta, eccetera, eccetera. Però, insomma, quello, c'è una cosa chiara: c'è una persona che spara, un assalitore e un assalito. Devi mettere in conto se sei rapinatore o no. Ma quello che hai detto tu è ovvio, hai perfettamente ragione. Diciamo che il rapinatore deve sapere che nel momento in cui delinque, i rischi del mestiere sono quelli di prendersi una pallottola in testa o in petto, cosa che è successa, ma non è la prima volta. È chiaro che a me dispiace per sto ragazzo, ragazzi, sì. 15 anni, diciamo, non è che hai tutte le rotelle a posto, però no, non c'è dubbio. È chiaro che il carabiniere che era in macchina non poteva chiedere la carta d'identità quando è stato aggredito e ne poteva fare altro se non difendersi, si è difeso, ha sparato, pazienza. Sì, appunto, pazienza, nel senso che ragazzi, sentimenti, se la magistratura deve accertare come sono delle cose, d'accordo, no, ma se tu hai una... ma se pazienza, tu ti metti in mano, pazienza. No, vabbè, però aspetta, pazienza. Se tu ti metti in mano con una pistola, la solita cosa che abbiamo sempre detto, se vuoi fare il rapinatore ci sta che crepi, c'è poco da fare. È inutile stare a discutere, mi pare, no? Cioè, tra i rischi del mestiere, tu fai il giornalista e puoi essere accusato di diffamazione, puoi essere accusato delle peggio cose, si sa, cosa, no? Cosa che spesso sarà accaduta nel suo caso. E invece questo qua, un rapinatore, che cosa succede? Un rapinatore va incontro spesso a un destino, ma non mi pare che si possa discutere su questa cosa qua, cioè, mi sembra abbastanza fattuale, o no? Mi pare che tu abbia centrato completamente il problema. Ti spiace sicuramente per un ragazzotto che fa questa fine, sì, e che termina la sua vita in quella maniera lì, però insomma se lui avesse fatto il garzone del fruttivendolo, non ci sarebbe se la mattina si fosse svegliato per andare, che ne so, a raccogliere nei campi, no, quello che fanno i neri, oppure se si fosse svegliato per andare al mercato a prendere le cassette, o anche andare a scuola pur essendo iscritto all'istituto tecnico, insomma. Ecco, ti invito a una riflessione su quello che ha scritto non Giuseppe Cruciani, non Vittorio Feltri, ma un professore dell'università Luis di Roma. Perché una volta tanto questi signori napoletani che ci rompono i coglioni a noi dicendo che siamo dei razzisti, che attacchiamo sempre Napoli, devono capire che non è solo un'idea nostra quella che abbiamo di Napoli come un posto diverso dal resto d'Italia, ma è anche di professori universitari, peraltro di origine napoletana. C'è un signore che si chiama Alessandro Orsini, che io non conoscevo prima. Beh, che grande professore della Luis, esatto, un professore della Luis napoletano, che dice che Napoli è una città moralmente inferiore. Dice: non ci sono dubbi, prendendo spunto da questo caso, sull'inferiorità morale di Napoli. Napoli è una città inferiore per molte ragioni morali. Mi limito a indicarne quattro per motivi di sintesi. Dice per i quattro motivi per cui, e che ne dico solo uno per semplicità, che è questo: cioè non c'è una ribellione, non c'è una rivolta delle persone di fronte a casi clamorosi. Dice: a Siena una cosa del genere non potrebbe accadere. Adesso io ti chiedo, si può dire che da questo punto di vista Napoli è inferiore moralmente rispetto agli altri posti? Io non me la sento di dire che è inferiore moralmente. Sicuramente il costume è tale per cui possono accadere queste cose che poi ci spingono anche a fare delle dichiarazioni di questo tipo, moralmente inferiore. Io non credo che sia moralmente inferiore, non è la città che è moralmente inferiore, ci sono degli strati di popolazione che purtroppo, anche per motivi diciamo economici, per motivi sociali eccetera, sono spinti a delinquere, e la delinquenza ha una protezione a Napoli, appunto, ma superiore rispetto a... non da parte di tutti, ma da parte di una fetta di di popolazione che capisce anche la necessità per qualcuno di delinquere per poter tirare a campare. Credo che il motivo sia questo. Poi naturalmente posso sbagliarmi. No, no, ma io invece penso che questo professore abbia ragione, e dirlo non è una cosa insultante. Cioè, questa cosa è l'orgoglio di Napoli. Io sono orgoglioso. Che cazzo serve dire sono orgoglioso di essere napoletano? Che cazzo vuol dire? Sei orgoglioso di un monumento, sei orgoglioso di una piazza, sei orgoglioso di una persona e di una presenza, ma non orgoglioso della città. Che cazzo vuol dire orgoglioso della città? Anche a Bergamo ci saranno degli stronzi, no? Che tu non è che sei orgoglioso. Pieno. L'umanità è un po' uguale dappertutto. Poi ci sono le situazioni sociali che mutano. Cioè a Bergamo una cosa del genere potrebbe accadere, cioè una rapina come quella là di Napoli, diciamo la verità, a Bergamo non potrebbe accadere, diciamola tutta. No, credo di no, però potrebbe anche accadere, adesso non me la sento di un quindicenne che va in giro con una pistola a rapinare un altro con ci sarà Rolex. Qualche giovane mascalzone ci sarà sicuro anche lì mascalzoni sono dappertutto. Però indubbiamente a Napoli questi episodi sono più frequenti, per motivi sociali, credo. Allora, Vittorio, tu sei sotto attacco per un titolo, questo virus, fatemelo dire. Io lo trovo, altamente ridicola. Magari sono anche... Ancora una volta una vergogna, fatemelo dire. Ma è una cosa scherzosa, ma è un fatto, virus alla conquista del sud, l'infezione che era l'unità d'Italia. Cioè, prima era solo sono arrivati al sud degli infettati. Tu a Parenzo che non lo capisce, i titoli dei giornali non li capisce. Ma io li capisco bene. Che Parenzo non capisca non mi stupisce, non mi sorprende, non è questo il punto. Il punto è che effettivamente il virus si è mosso dal nord dove aveva già fatto tanti guai e si sta spingendo verso il sud. Vabbè, che bella scoperta. Che vuol dire la conquista? Che scoperta è? Vabbè, certo. Ma la conquista? Allora dov'è il problema? Se non è una scoperta. Ma perché è un titolo cattivo, grezzo. Ma che cazzo te ne frega se il titolo è cattivo o buono? Questi sono gusti tuoi. Esatto. Dei tuoi gusti. Io me ne strafotto. Sono gusti miei, è un titolo di cattivo gusto. Il cattivo gusto, sì, ma il cattivo gusto non va sotto processo, non viene messo alla gogna. Se anche fosse di cattivo gusto, scusami, Vittorio, fosse anche di cattivo gusto, chi se ne frega? Non è che uno ti mette sotto, chi se ne frega? Ma quello fa informazione o banane? Dai, adesso decidi tu. Non c'entra le banane col cattivo gusto, che sono di cosa si occupa? Di informazione o di che cosa? Ma sì, certo che sono buone. Allora passiamo ad un'altra cosa, Vittorio, prima di lasciarti. Allora vengo ad apprendere che tu vai a tagliarti le unghie, lo hai detto ieri sera da Chiambretti, in un posto cinese. Non sapevo che tu ti andassi a tagliare le unghie, ti facessi la manicure, ma anche quelle dei piedi ti fai tagliare. Dottore Feltri, taglia le unghie. Dottore Feltri, libero, taglia le unghie bene. No, questo si comincia a fare il coglione. Stai zitto, ma no, perché io sono veramente fastidisce. Perché la fessaggine, quando è reiterata. Dottore, veramente... aspetto fuori da libero, portale a casa, dottore. Dimmi. Ma perché ce l'ha col suo autista cinese? Perché? Dottore, no, l'abbiato. Dottore, io autista cinese, portale a casa, attimo, così tranquillo, dottore, che anziano, dottore, di libero, io tutelo. Tutelo, dottore Feltri. Mi devi fare litigare col direttore, guarda, incredibile. Dottore, risponde, telefono squilla, dottore Feltri. Perché sei capone nell'anima. Dottore, io aiutale, dottore, tutto il giorno. Non ce la faccio, dai. No, scusi, avevo un po' di... Come? Giovanni, non vado al barbiere neanche io, quindi... Va bene, meglio, sì. Questa volta non ripetiamo più. Mi permetto nuovamente, care concittadine... No, aspetti, no, aspetti, no. Voi

da quest'Italia, l'Europa, questa Europa di merda, l'Europa, sapessi che fine dovrà fare proprio, chiamami questo Farinella, ti supplico. Ma scusami, no, non Parenzo, è per bene mio, no, no, ho capito, per il bene dell'Italia, ma io ti supplico, bene. Ma io ti supplico, ma mandalo a quel paese anche tu, è matto, segnalalo ai parenti, è matto, è cosa? Cosa? Che ti devo dire? È matto, segnalalo, lo dico per lui, segnalalo. Deve è dire come si chiama il suo Dio? Ancora. Mi deve ma chi dire va ancora come sta si storia? Chiama il suo Dio? Ma è pazzo questo, è ossessionato. Hai capito? Io voglio, allora, ma non capisco, come parlo con questo farlo? Ma ti spiego, non faccio nulla di male. Vabbè, ti farò parlare con un prete nei prossimi giorni, dato, promesso. Ma farlo parlare promesso? Con un medico prima. Promesso, con un medico. Perché con un medico? Non ho capito, Davide. Perché è matto. Parenzo già non esiste più. Con uno più. Psichiatra fatelo parlare. Tu sai che Parenzo non mi fa più incazzare? Io vorrei che mi facessi incazzare. Oh, non mi fa incazzare, lo so perché volevo dirlo. Non mi fa incazzare. Ciao Donato, ciao. La Zanzara. C'è il demone, femminile. Questo è la sua materia. C'è il demone. Ciao ragazzi, Longoni mi ha detto che quando c'è lui riesco a chiamare. No, ma che c'entra? Lascia perdere, demone. No, decido io, se tu chiami dai. Decido io quando... No, secondo me è Ramelli in realtà che ti ostracizza, sai demone. Perché Parenzo deve sempre fare il superiore su tutti e tutti? Bravo demone, bravo. No, su tutti, dipende. No, ma dipende la risposta, perché è uno stronzo. Dipende, se tu consideri uno a livello di Mauro da Mantova, lo tratti come tale. Ma va benissimo, è simpatico. Ma io posso capire che cioè, ci sono i casi limite, ma non è che siamo tutti Mauro da Mantova, Parenzo. No, non tutti. No, vabbè, demone, allora non ho capito, demone, non ho capito bene com'è la situazione. Ti ho chiamato perché sono un po' depresso, volevo passare un po' di tempo, ok? Sì, vabbè, quello è abbastanza, giusto, abbastanza corretto questa il cosa servizio qua. Pubblico della Zanzara. Scusami, sì, demone. Io volevo parlare del Covid comunque, beh, sì, perché è il tema del giorno. Giusto, parli con Gottardo, ma avete la stessa demone, formazione. Tu parli esci, con Gottardo esci del da COVID. Casa oppure no? Questa è la cosa fondamentale. Esci. No, io esco per fare le cose essenziali, logico, non esco neanche io. Come in questo periodo come fai il tuo approvvigionamento se ancora fai uso di sostanze stupefacenti? Come fai ad approvvigionarti? Questo è anche interessante. Questo è quando ne approfitto, quando vado a fare la spesa. Lo vedi. Lo spaccino. Ti dai appuntamento in fila al supermercato. Cosa hai comprato ultimamente al supermercato e poi dallo spaccino, demone? Supermercato ho preso la carne, altra roba. Sì, però demone, posso dirti una cosa? No, ma lascia perdere lo spacciatore, sono affari suoi quello che ha preso lo spacciatore. Esatto, no, non stiamo qui a fare la delazione. Il problema è un altro, Luca. Caro demone, Luca, tra l'altro, la questione è molto semplice. Il caso del demone ci fa capire come ci siano tante persone in questo momento che normalmente fanno uso di sostanze stupefacenti e che naturalmente cercano le strade, le strade più quelle che hanno a disposizione. No, in questo caso il demone, quando va a fare la spesa, associa le due cose. Possiamo dire così, demone? Sì, esatto, faccio un passo qua, un passo là, mentre vado a fare la spesa, capito? Sì, ho capito benissimo, però questo dimostra che cosa, ragazzi? Dimostra che alla fine, prima ti consentivano di farlo praticamente in maniera libera, e adesso, e adesso hai delle costrizioni, meglio legalizzare a questo punto. Però, il caso però, del demone è abbastanza significativo. Come siamo tanti la radio della Confindustria, siamo la radio della Confindustria, dobbiamo fare anche un po' di alfabetizzazione economica. La droga è aumentata o diminuita di qualità e di prezzo con il Covid-19? Demone, che dici? Ma guarda, secondo me è diminuita di qualità, però c'è qualcuno che c'ha sempre le cose abbastanza buone, pregianza. Diciamo se non è mutata la cosa, diciamo che... E i prezzi? Prezzi sono identici più o meno, cioè non ti fanno più lo sconto dei 5 euro, però... Cioè il mercato è immutato, significa che sostanzialmente si vende... Poi irrigidito però. Però si vende la stessa quantità praticamente, se i prezzi altrimenti calerebbero. Però diciamo c'è gente che se ne approfitta, dice ce n'è meno in giro e ti dà la manitolo altra roba che una manitolo. Volta... Che cos'è manitolo? La mannite, quella roba lì, dai. Manitolo. Vabbè, quindi che dica... per la stessa qualità di principio attivo, meno, cioè, hai un prezzo più alto di fatto. Se vuoi comprarti la stessa cocaina di prima, devi spendere un po' di più. Certo. Cocaina? Adesso non entriamo nel dettaglio. Ci sono anche dei personaggi che ce l'hanno buona, te la danno. Ma gli spacciatori ce l'hanno la mascherina oppure no? Ma che no, non ce l'hanno, non ce l'hanno. Scusami, Demone, che idea ti sei fatto di questo Covid? Però voglio capire, cioè, voglio dire, tu che sei, come dire, anche uno che usa le sostanze chimiche, no? Che sei una specie di piccolo chimico, lo psiconauta. Che già io, fumando quello che fumo, sono debole di polmoni, per dire. Appunto, no? Non dovresti rischiare troppo con gli spacciatori privi di mascherina. Ma comunque, un altro discorso. Che idea ti sei fatto tu, caro Demone? Ma mi sono fatto l'idea che questo virus sarà il virus finale, anche se all'inizio sembrava una cosa innocente. Virus finale, cioè che crepiamo tutti, non ho capito, virus finale. Sì, magari in 50 anni, 100 anni, ma beh, questo ho virus... Ho capito, ma tiè, amico mio. Ascoltami, è importante, vi ho chiamato proprio per questo. Cioè, la fine del mondo, la fine del mondo è vicina, dici tu. No, del mondo no, dell'umanità sì. Vabbè, ho capito, secondo me, dell'umanità. Poi magari mi sbaglio. Ma ho capito, scusa. D'altra parte, il Demone lo dice da parecchio tempo nelle sue visioni. A proposito, ma la CIA... La gente sta pagando con il sangue, effettivamente. Esatto, quando diceva la gente di pagare, un mese dopo è uscito sto virus. Cioè io sento le cose prima, perché percepisco l'odio, percepisco le cose, sono collegato con le piante, con capito? Le piante. Certo. Cioè io magari mi mangio la bistecca, ok? Cerco di prendere la carne buona, tra l'altro, con animali rispettati fino all'ultimo giorno. Però... Okay? Non... Uh-huh. Ecco. Però comunque sono collegato con la natura. Quindi va a vedere che magari un giorno mi sveglierò e ci sarà tutto il mondo morto e io sarò da solo sul mondo. L'ultimo uomo sulla terra. Come nel romanzo Io sono leggenda. Scusami Demone, però per Demone, sono comunque scusami. Un atipico dell'area 51. Ma i tuoi contatti antichi, non so se li hai rinnovati con agenti del col Pentagono, con chi era? CIA, Pentagono, R51, diciamo i miei contatti, guarda, praticamente se loro arrivano a casa mia, mi drogano, mi prelevano, mi portano in qualche posto. Come hanno fatto? Non c'è bisogno. Drogano, non c'è bisogno, perché mi pare che faccia già lei da solo. Ma non con droghe normali, diciamo i miei contatti sono più che altro telematici, no? Telematici, che rispondono, che dicono? Sono allarmati pure loro. Sono preoccupati. Ma guarda, ma del Covid non gliel'ho neanche parlato, cioè, ma poi non rispondono neanche spesso, cioè dipende un po' dal fatto. Diciamo, io c'ho il numero dell'FBI di Roma, per dire. FBI, ma non è che li chiamo per parlare del Covid. Non sapevo, capito? Che ci fosse l'FBI a Roma, però. Ma interessante. Sì, c'è l'FBI a Roma, te lo passo non lo il numero, te lo scrivo. Ciao Demone. Grazie. Lo dico a Gottardo, che così poi vi sentite tra di voi. Bravi. Ciao Demone, ciao, un abbraccio. Schifosi sudici, andate a tossire a casa vostra, pezzi di merda, ci infettate anche il tutto, fate schifo, pezzi di merda. Gottardo, io sono un rianimatore e lavoro in una terapia intensiva dove trattiamo solo coronavirus e volevo avvisarti che il paziente medio che ricoveriamo ha 50-60 anni, visto che sopra i 70 ormai non li prendiamo quasi più perché non c'è posto, ed è obeso e iperteso. Fatti due conti. Gottardo, la gente non ti odia, ti disprezza e basta. Figurati se sprecano un sentimento per te. Trincerati nel bunker, oberati dal telelavoro, siamo in trepidante attesa delle 18.35. Chiudessero tutto, toglieteci tutto, ma non la zanzara. Parenzo, maledetto inseminatore folle, datti una calmata. Siamo praticamente a 4 figli, mi pare abbastanza a 44 anni. Basta, fatti un fiocco all'uccello. Basta. Vabbè, buonanotte. Ecco, senti che bene, si sente la radio fatta da casa. Buonanotte, ottimo, Fiorellino. Ottimo. Si sarà messo col wifi come al solito. Figurati. Intanto vi devo segnalare che Berlusconi se n'è andato a Nizza. Quando si vede lo spessore dello statista. Tu dici che quando l'Italia è in queste situazioni. Quell'altro era andato a Brindisi, mi sembra di ricordare. Spiegato poco fa.